Carissimi seguaci del Tentacolo Viola, un salutone a tutti. Quello che state per ascoltare non è il nuovo episodio del Tentacolo Viola, ma è un esperimento, un'intervista doppia che abbiamo, come dire, shippato a un noto programma televisivo. Protagonisti di questa intervista doppia sono Tommaso De Benetti di Rincast e Pierpaolo Greco di Multiplayer.it. Perché loro due? Perché sono i responsabili, i chairman, dei podcast di videogiochi italiani più antichi, vecchi, insomma, che ci sono da più tempo. Spero che questa novità possa piacervi, è una cosa nata in 5 minuti e figlia anche di una sorta di montaggio un po' particolare. Comunque, spero veramente che vi facciate 4 risate, a risentirci spero abbastanza presto con il nuovo episodio regolare del Tentacolo. Un salutone e ciao a tutti. Ciao a tutti e benvenuti all'intervista doppia del Tentacolo Viola. Oggi con noi ci sono Tommaso De Benetti di Rincast e Pierpaolo Greco di Multiplayer.it. Risponderà prima Tommaso e poi subito a seguire Pierpaolo. Speriamo vi piaccia questa novità, iniziamo. Ciao Tommaso. Ciao Davide. Ciao Pierpaolo. Buonasera a te, caro. Qual è il tuo nick e perché l'hai scelto? Il mio nick è Gatsu, l'ho scelto quando ho aperto il mio primo account su internet con Italia Online, credo fosse al tempo. Chi legge Berserk saprà che è il nome del protagonista, è un nick che mi porto dietro da un bel po'. Quakeman, una storia lunghissima, beh, nasce da grandissimo giocatore di Quake 3 Arena 15 anni fa, non lo so, 10 anni fa, e da lì non sono mai stato molto soprannominato dagli amici, allora me lo sono praticamente attribuito, nascendo appunto da giocatore di Quake, venuto fuori questo Quakeman che poi mi sono trascinato dietro, ma rimane molto digitale come nickname, appunto gli amici non è che mi ci chiamano in giro per la strada o per casa. Quanti anni hai? 27. 30, compiuti da pochissimo. Nella migliore tradizione di interviste di questo tipo, descriviti con 3 aggettivi. Allora direi creativo, dittatoriale e incompleto, nel senso che non finisco mai le cose. Allora, sicuramente pelato, perché comunque ha fatto un po' la mia fortuna e la mia sfortuna da un punto di vista estetico, ma da un punto di vista di conoscenza. Poi assolutamente polemico, proprio a livelli inverosimili. Un terzo aggettivo, molto irascibile, c'è stato un periodo che ero veramente iracondo, irascibile, devo dire che complice il mio editor, il mio capo Andrea Pucci, che più di qualche volta mi ha cacciato selvaggiamente dall'ufficio per alcune mie uscite, negli ultimi 2-3 anni, complice anche la vecchiaia, un po' sono andato a smorzare questa parte, però irascibile sicuramente mi suona bene. Da quanto tempo giochi coi videogiochi? Da quando ho 5 anni, quindi 22 anni più o meno. Da quando avevo 6 anni il mio babbo mi fece trovare, a quel tempo Babbo Natale, sotto l'albero di Natale un televisore microscopico e un Commodore 64. Il primo computer o console che hai usato per giocare? Commodore 16. Assolutamente il Commodore 64. Il sistema da casa, console o computer a cui sei più affezionato? Macintosh, è quello con cui lavoro. Sicuramente il primo NES a pari merito con l'Amiga 500. Meglio un gioco con grafica brutta ma strepitoso come gameplay o un gioco graficamente eccelso ma un filo palloso? No, il primo. Dipende molto che ci devi fare. Sicuramente se sono da solo a casa mia e voglio farmi una bella partita, preferisco il gioco orribile graficamente ma estremamente coinvolgente di gameplay. Però il mio lato tecnico, visivo, di colui che spende 100 euro ogni trimestre per aggiornare il PC, non disdegna anche la prova estremamente grafica e molto poco di sostanza da far vedere agli amici e per essere felici se stessi. Dimmi la volta in cui ti sei veramente cagato sotto dalla paura giocando. Forbidden Siren, penso il primo in particolare, è un gioco che ti lascia completamente spiazzato, senza difese. Io sono una persona estremamente, chi sente il podcast lo sa, mi dà molto fastidio, cioè non faccio fatica a giocare giochi di orrore perché sono una persona estremamente, viene proprio l'ansia mentre gioca, quindi ricordo con enorme terrore e raccapriccio Doom 3, che io da grandissimo appassionato di Doom mi sono sentito costretto a finire, ma veramente non potevo fare sessioni più lunghe di forse 12 minuti, pena veramente la morte per cardiopalma. Anche il primo Dead Space, devo essere sincero, ma un po' troppo tutti i giochi di paura che fanno saltare mi danno proprio del fastidio interiore, quindi è abbastanza generalizzata la cosa. E la volta che ti sei emozionato di più? Zelda Ocarina of Time alla fine. Sono sicuramente molto legato a Monkey Island. Se vado proprio molto indietro, mi ricordo il quarto Wing Commander, quello con i super attori. Mi ricordo che mi ero veramente emozionato. Però, se devo pensare a qualche gioco che mi ha fatto anche spendere qualche lacrima, lo sai che è difficile. Questa è una domanda un po' complessa così al volo. Perché i vari Ico, Shadow of the Colossus, quelli considerati un po' più artistici, sì, mi hanno preso, ma non a livello forse proprio emotivo forte. Ah, bah, guarda, anche di recente Heavy Rain, mi sono stati un paio di punti che mi hanno emozionato. Hai mai rinunciato a fare sesso perché in quel momento non potevi salvare la partita e hai finito comunque il livello? Sì, c'è stato un caso abbastanza inquietante dove la mia ragazza dell'epoca mi chiedeva di mettere via il Game Boy. Io stavo giocando a Castlevania e gli ho detto: Donna, non mi rompere i coglioni che sono al boss. Assolutamente sì, troppe volte, devo essere sincero. Ti è mai successo mentre facevi sesso di distrarti e pensare ad un gioco? No, ma mi è successo di pensare a Berlusconi o ai cartoni animati per cercare di mantenere la prestazione. Ah, beh, alla grande, assolutamente, però beh, a livello utilitaristico possiamo dire, non a livello perché non avevo di meglio da pensare o non era coinvolgente in quel momento. A livello utilitaristico, sì, più di qualche volta. Ti dicessero che se rinunci ai videogiochi per sempre puoi avere tutti i soldi che vuoi, rinunceresti? Sì. Per sempre proprio, cioè totalmente. Eh beh, diciamo che è sempre attraente avere i soldi infiniti, non è una cosa che uno disdegna. Cioè, in modo razionale sì, perché comunque è troppo allettante la proposta. Certo, in modo emotivo un po' mi dispiacerebbe. Hai mai distrutto un joypad, joystick o altra periferica per l'incazzatura? No, però credo di averlo sbattuto addosso al muro, ma non l'ho mai spaccato. Sì, assolutamente. Più che proprio joystick così, mi capita di rompere manovelle, come vogliamo chiamare, joystick in sala giochi. Bestemmio. Qual è la cosa più terribile che dici quando ti incazzi mentre giochi? Beh, terribile che dico, la cosa più terribile, cazzo. Terribile. No, diciamo che sono uno appunto estremamente irascibile, quindi quando gioco in multiplayer lancio dei grandissimi sproloqui. Quando gioco da solo, no, dei grossi vaffanculo, ma nulla di. Da solo mi sentirei veramente idiota a fare anche degli insulti potenti. Nel tempo lontano, quando esistevano ancora le sale giochi, ci andavi? Sì, soprattutto in vacanza al mare d'estate. Sì, a voglia. E il gioco da bar dove hai speso più soldi in assoluto? Bionic Commando, probabilmente. Sicuramente Street Fighter 2. Ti ci vedi a 60 anni a giocare ancora? Ma probabilmente non con i giochi di adesso. Ci saranno dei giochi da vecchio, magari giocherò a quelli. Sì, assolutamente. Cazzo, spero. Cosa ti ha spinto a mettere su un podcast? Ma perché al momento quando abbiamo aperto Rincast, non c'era nessuno praticamente che lo faceva in italiano e credo anche Multiplayer abbia iniziato dopo, anche se effettivamente hanno più puntate di noi a questo punto. Io non volevo far morire diciamo, tutta l'esperienza che avevamo avuto con Ring, la rivista, e è stato un tentativo di coinvolgere gli altri ragazzi di nuovo con un nuovo format. Il tentativo non è riuscito molto bene in quella formula, nel senso che mi sono ritrovato da solo per un bel po', a intervistare altre persone esterne e poi a un certo punto abbiamo trovato la formula con Vito Iovara e Ferruccio, che mi pare sia quella che ha dato, insomma, il successo a Rincast. Un po' di ispirazione sentendo il vecchissimo podcast di PC Gamer, ho detto se ci riescono loro e sono veramente abbastanza sgarrupati a sentirli perché non ci possiamo riuscire noi. Cos'è la cosa che ti piace di più e la cosa che ti piace di meno del gestire il podcast? Ma che mi piace di meno sicuramente tutta la parte di editing, eccetera. Infatti, devo dire la verità, mi sto stancando. Ormai siamo a quasi una sessantina di episodi e se penso a tutte le ore che ho investito per mettere insieme tutti questi episodi, mi viene un po' il magone. Sto valutando se non esistono modi migliori per investire il mio tempo. Però, dall'altra parte, mi piace avere una trasmissione che comunque ha un certo seguito, mi diverto a parlare con gli altri, insomma, alla fine ci facciamo anche delle gran risate. Però ecco, se potessi farla senza sbattermi tutta la parte tecnica di editing, di grafica e metterlo online, fare lo spam, eccetera, sarei felicissimo se si potesse evitare. Di più, beh, come sempre, naturalmente i commenti, le mail, anche le grossissime critiche ricevute dagli ascoltatori, quelli in assoluto, anche appunto quando sono molto negative. La cosa che mi piace di meno è il dover mettere in piedi ogni settimana, cioè dover convincere, trovare l'orario, fare tardi, svegliarsi all'alba e l'organizzazione generale con tutti quanti i ragazzi per trovarsi tutti insieme alla stessa ora in un punto ben preciso. Tommaso, lo ascolti il podcast di multiplayer? Sì. Dimmi la cosa che ti piace di più e ti piace di meno del podcast di Multiplayer. Ma che mi piace di meno, l'ho anche detto a Pierpaolo una volta che è capitato, che hanno questa diatriba su Apple che va avanti da sempre. Adesso mi pare negli ultimi episodi sia un po' ammorbidita, ma che veramente ha stancato. Cioè, per chi segue tutte le puntate, credo che la cosa venga nominata in almeno 20. Ed è pesante, insomma, dopo un po'. Che mi piace di più, ma niente, i ragazzi sono molto simpatici. Io mi trovo spesso a concordare con le opinioni di Andrea Palmisano, che insomma, con cui diciamo c'è una sovrapposizione quasi uno a uno con il mio pensiero. Poi so che molti altri ascoltatori del loro podcast si schierano con altri delle redazioni. In realtà credo che Palmisano non abbia tutti questi supporter effettivi, però secondo me è decisamente l'uomo che ha sempre ragione. Potessi rubare un membro del loro podcast, chi ruberesti? Andrea Palmisano. Pierpaolo, ascolti Rincast? Sì. Dimmi la cosa che ti piace di più e la cosa che ti piace di meno di Rincast. Allora, la cosa che mi piace di più sicuramente il trio, che funziona veramente alla grande, è estremamente scanzonato, sa approfondire benissimo ed è comunque di una simpatia enorme, complice anche proprio come stridono tra loro le tre persone, insomma i tre ragazzi. La cosa che mi piace di meno, forse secondo me troppe volte si appoggiano cioè alla primissima impressione con un gioco, nel senso che talvolta sembra che appena preso fa cagare bello e lì appoggiano qualsiasi tipo di giudizio o critica su un video, sul videogioco stesso di cui stanno parlando. Chi ruberesti dal loro podcast? Loro funzionano tutti e tre bene, secondo me, legati tra di loro. Per motivi diversi ruberei un po' tutti e tre, perché Tommaso per la parte organizzativa, Ferruccio perché sa essere comunque... è difficile, perché comunque ognuno sa essere a modo suo particolare, per cui non è così semplice. Forse così al volo mi verrebbe da dire Tommaso, ma direi probabilmente una cazzata, perché appunto funzionano tutti e tre bene, perché sono loro tre. Tommaso, lo vorresti Pierpaolo come capo? Come capo? Ma boh, sì, penso che sarebbe divertente. Pierpaolo, lo vorresti Gatsu come capo? Che cazzo adesso, oddio, così da come traspare, da tante chiacchiere abbiamo fatto, mi sembra una persona estremamente piacevole, estremamente socievole, anche piuttosto meritocratico, così a sentirlo. Poi non ho idea, magari sul lavoro è un pezzo di merda che tipo me o anche soltanto la metà di me, quindi ti direi di no, però non lo so. Cosa ne pensi di tutti gli altri podcast che sono nati negli ultimi 2 anni? Ma guarda, devo dire, spero non con arroganza, che sono contento che in un certo senso Rincast abbia contribuito a far nascere altri progetti. E secondo me c'è stato il boom effettivo dopo che è nato il Tentacolo Viola, cioè dopo il Tentacolo Viola ne sono spuntati 50. Credo che abbiamo raggiunto un punto di rottura dove la gente ha iniziato a dire ok, sta cosa del podcast è una buona idea, facciamolo. No, devo dire che la qualità media di quelli che ascolto io è molto alta e nel tempo credo, cioè senza problemi posso anche dire che alcune trasmissioni sono qualitativamente migliori di Rincast, quindi direi che la qualità media si è alzata molto e diciamo che gli allievi hanno superato il maestro in alcuni casi. Che comunque ognuno a suo modo ha saputo tirare fuori qualche cosa di interessante, anche se purtroppo molti forse si appoggiano un po' troppo all'essere cazzoni nel senso di dire noi sappiamo fare meglio degli altri, noi guarda perché siamo originali, perché guarda invece Multiplayer e Rincast fanno così da tot tempo. Forse quella è una cosa un po' troppo da appunto dall'essere cazzoni, anche se devo dire che più di qualcuno ha portato qualche cosa di interessante sulla scena. Hai mai pensato di chiudere il podcast perché ti sei annoiato o è troppo oneroso da tenere? Sì. Mille volte proprio, probabilmente quasi tutti, fino a un'ora prima che inizio a registrare. Pensi che Edge dia voti solo per tirarsela o in realtà hanno un senso? Allora, io lo seguo sempre, sono abbonato da diversi anni, mi piacciono le loro recensioni, mi piacciono gli speciali, su alcune recensioni sono incomprensibili. Non sono sempre quelle che escono nei forum, però hanno almeno un 5-6 recensioni che sono veramente non stanno né in cielo né in terra. Tante volte riescono a giustificarsi un po', ma a volte sono abbastanza ridicoli. Comunque, insomma, Edge alla fine è una redazione fatta da persone e se una persona sta sulle palle un certo gioco lo stronca, ovviamente poi si presenta con la faccia alla rivista. Probabilmente il problema principale è che non ha firme, quindi non sai mai chi è che ha scritto una recensione, quindi se è sempre lo stesso deficiente o effettivamente a volte hanno dei pregiudizi. Mi pare che con alcune serie in particolare non vanno mai teneri, per esempio sì, Dragon Age, oppure un'altra con cui Resistance, mi pare, lo stroncano sempre in qualsiasi formato. Poi io in realtà i giochi non li ho mai giocati, quindi magari non è particolarmente bello, però hanno una certa antipatia, si può percepire, ecco. No, solo per tirarsela, io sono il più grande critico da sempre, e se potessi ti farei sentire anche gli altri redazione da quando esiste Edge, che trovo una rivista eccezionale per qualsiasi approfondimento, assolutamente merdosa per quello che riguarda le recensioni, per tutti per quei 10 Halo già di per sé, proprio per quello che mi riguarda. Dove tra questi luoghi non andresti mai in vacanza? La Silent Hill di Silent Hill 2, la Ishimura di The Space o la Raccoon City in Resident Evil 2? Silent Hill, direi. La Ishimura ci andrei perché sono un appassionato di fantascienza, quindi se devo morire nello spazio vorrei farlo nella Ishimura. Sicuramente la Ishimura, trovo più inquietante quello lì, poi probabilmente puoi anche scappare di meno. Dai voti secchi a questi giochi: Mario 64 10, Mario 9, Half-Life 2 10, 9, Halo 1 non pervenuto, non ci ho giocato. Cazzo, sempre 9, cioè... Marble Madness 1, mi è sempre sembrato un gioco del cazzo. Non classificato. International Karate Plus. Non sono nemmeno sicuro quale sia, forse quello esperimento non lo conosco. Beh, forse gli darei un 9 più, tendente al 9,5. Modern Warfare 2 6. XCOM UFO Enemy Unknown. Non ho giocato. Mamma mia, pure qua 9,5. Ghost and Goblins 8, anche per ragioni storiche, è stato il primo gioco da sala giochi che ho giocato. 7, non sono mai stato un grande amante. Adesso un po' di preferenze secche: FIFA o Pro Evolution? Non gioco a calcio, quindi differente. FIFA. Donkey Kong o Pac-Man? Donkey Kong. Ghost Recon o Call of Duty? Forse Call of Duty, ma sono insignificanti per me. Ghost Recon, dai. Mario o Yoshi? Mario. Yoshi. Lips o SingStar? Lips, perché ne ho comprate 4 edizioni, però SingStar è meglio. Lips. I JRPG sono veramente retro gaming? Sì, l'unico che mi ha un po' interessato negli ultimi anni è Persona 4, però anche quello l'ho mollato a una ventina di ore e mi piaceva, ma c'ha questo difetto di avere i dungeon completamente identici per 10 piani, quindi è un po' pesante. Ha delle cose molto interessanti, però. Ma la grandissima proprio. Puoi comprare solo uno tra 3DS, NGP, iPad 2. Cosa compri? iPad 2. Questa è la domanda automaticamente risposta. iPad 2, assolutamente. Meglio, Scarlett Johansson, Megan Fox o Jessica Biel? Ma dico Scarlett Johansson, ma non è che segua molto le attrici. Per me la più bella del mondo è Jennifer Connelly. Scarlett tutta la vita proprio. Questa intervista ti è piaciuta? È una cagata colossale? È una cagata, però divertente. Ma abbastanza cagata, però siccome voglio tantissimo bene a Dave l'ho fatto cadere. No, mi è piaciuto e mi sono anche molto divertito. Se vuoi salutare qualcuno è il momento di farlo. Ma saluto Pierpaolo. Ma saluto tutti quelli che mi conoscono e che mi vogliono bene, ma saluto quelli che mi vogliono male. Vi ringrazio veramente tanto, un salutone alla prossima, ciao! I riferimenti del Tentacolo Viola sono, come sempre, il blog iltentacoloviola.splinder.com, dove potete trovare tutti i nostri episodi, più il link alla pagina Facebook dove diventare fan, Twitter all'indirizzo twitter.com/iltentacolo e la mail ovviamente, che è sempre iltentacoloviola@gmail.com. Su iTunes, per trovarci, basta inserire nel campo di ricerca il Tentacolo Viola. Dal 13° episodio, che prima o poi arriverà, cambieremo anche hosting per il blog, ma quando sarà tutto pronto darò il link nuovo. Spero che questo esperimento vi sia piaciuto, arrivederci a presto per il nuovo episodio regolare. Un salutone e ciao alla prossima.